Cari amici, cerchiamo nella parola di Dio sempre l'insegnamento, non solo per la nostra fede, ma anche per la nostra vita umana. Per esempio, qui c'è questa frase finale del Vangelo: molti dei capi credettero in lui, ma non lo dichiaravano, perché non volevano essere scacciati dalla sinagoga. E poi conclude con una frase di fuoco: amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. E io di fronte a questo non giudico nessuno. Mi fa male questa frase, perché avviene ancora così. Avveniva già ai tempi di Gesù, vero? Se controlliamo, anche Nicodemo va a trovare Gesù di notte per non farsi vedere dalla congrega dei capi. E i genitori del cieco nato, quando sono interrogati dai farisei: ma allora il vostro figlio, guardate, è maggiorenne, chiedetelo a lui, perché avevano paura di essere emarginati anche loro. Ma non avviene ancora così ancora oggi? Quante volte facciamo l'esame di coscienza, e io con voi che sono peccatore più di voi, quante volte ci vergogniamo di fronte agli altri a mostrarci cristiani? Gente che dice la preghiera sempre a tavola prima di mangiare, vanno in pizzeria col bambino, pizzeria è piena, non fanno il segno di croce. E allora il bambino, i bambini, non facciamo la preghiera? E allora a lei, forza, di fronte a tutti, il segno di croce e così via. Ma anche a me viene in mente una volta in cui mi sono profondamente vergognato di me stesso. Andai all'ospedale a trovare degli ammalati, in una camera di tre letti c'era un mio parrocchiano. Allora mi fermo ai piedi del letto a conversare un po' con lui, gli altri due erano lì con i loro parenti, così. Mi sono vergognato a dargli la benedizione di fronte a tutti. Ma ci ha pensato questo parrocchiano mentre stavo venendo via, dice: e non mi dà la benedizione. Prendi su, va. Tu che ti vergogni di farti... e sei prete. Cari amici, non condanniamo nessuno, perché anche noi siamo fatti di peccati. Ci fa male. Chiediamo al Signore questa grazia. O Gesù, non farmi vergognare di te, fammi vincere il rispetto umano, perché devo avere il rispetto di Dio.